La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra. L'articolo 62 prevede quando viene convocato il Parlamento. Può sembrare una disciplina veramente antistorica, perché ormai noi sappiamo che il Parlamento lavora regolarmente tutte le settimane. Eppure i costituenti ebbero bisogno di precisare che le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre e che la Camera può essere convocata in via straordinaria su iniziativa del Presidente della Repubblica o di un terzo dei componenti. E ancora che quando si riunisce una Camera, anche l'altra è convocata di diritto. Per capire questa disciplina dobbiamo tornare con la mente agli anni della Costituente e soprattutto a ciò che era accaduto prima. Infatti, in epoca statutaria avevamo sì un Parlamento, tuttavia il Parlamento non si riuniva quasi mai. Può sembrare incredibile, ma nei primi 62 anni di Italia Unita il Parlamento lavorò soltanto 22 anni, mentre in tutto il resto dei periodi, con l'istituto della proroga delle sessioni di lavoro, praticamente non si riuniva. Quindi, in una repubblica parlamentare, i costituenti hanno voluto porre chiaramente il principio che il Parlamento deve riunirsi spesso e soprattutto deve riunirsi anche su convocazione di una minoranza. L'ultima parte del secondo comma consente a un terzo dei componenti di chiedere la convocazione. Questo fa tornare alla mente la secessione dell'Aventino, giugno 1924, quando le opposizioni, per un colpo di mano del governo, furono praticamente messe fuori dal Parlamento. Oggi questo non sarebbe più possibile perché il Parlamento può lavorare e convocarsi anche solo su convocazione della minoranza. Da ultimo si ribadisce il principio del bicameralismo perfetto. Quando si convoca una Camera, si convoca anche l'altra, anche qui per garantire pienamente la parità del bicameralismo. In Italia, in Italia,